Il piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera. Tanto dalle amate sponde, sommesso lieve il tripudia dell'onde, era presagio dolce e lusinghiero, il piave mormorò, non passa lo straniero, e ritornò il nemico per l'orgoglio e per la fame, voleva sfogare tutte le sue brame. Vedeva il piano aprico di lassù, voleva ancora sfamarsi e tripudiare come allora. No, disse il piave, no, dissero i fanti, mai più il nemico faccia un passo avanti. Si vide il piave rigonfia le sponde, e come i fanti combattevan l'onde. Rosso del sangue del nemico intero, il piave comandò, indietro va straniero.